Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo, ed obbligo a questo punto, visto la fiducia posta sullo scudo fiscale, dichiarazioni di vario genere, a partire dalle dichiarazioni del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Beffera, ma non solo, anche del ministro dell'economia Giulio Tremonti e del presidente delle banche italiane ABI sul scudo e sulla sua dinamica. Ne discuteremo anche con uno dei maggiori docenti di diritto tributario internazionale che proprio sul Sole 24 Ore di 5 giorni fa, se non ricordo male, difese l'ipotesi dello scudo. Vogliamo capire appunto come mai e soprattutto quali sono e potrebbero essere i vantaggi e il perché si è arrivata a una formulazione come questa. Poi parleremo di borsa, come sempre. Devo dirvi che le borse sono tutte deboli tranne Milano, che guadagna lo 0,3%, lo perde invece uno 0,3% Parigi, lo perde anche Francoforte, Londra è invariata, l'America cede lo 0,3%, l'euro è sceso a quota 1,45, dicevo di Milano più 0,3% sui due indici. Tra i titoli che permettono a Milano di essere l'unica praticamente borsa positiva tra le principali europee, citiamo Alleanza più 3,3, Generali più 3,1%, segnalo l'intervista oggi su Sole 24 Ore, CIR più 2,5, Unicredit più 2, Mondadori più 1,5, Saipem più 1,3, Finmeccanica più 1,2, Banco Popolare più 1%, Mediolanum più 0,90. Dicevo, scudo fiscale, borsa, ma anche un'emissione obbligazionaria italiana dello Stato italiano per più di 2 miliardi di euro dedicata a investitori però istituzionali, non ai privati cittadini, e anche di questo parleremo. Un global bond, come si chiama in gergo, da 2 miliardi e mezzo di dollari, sottoscritto principalmente dalle banche centrali e dalle istituzioni governative con prevalenza di investitori americani, paga una cedola del 2,12% e a scadenza il 5 ottobre 2012. Importante questo collocamento perché sappiamo che nei mesi scorsi, soprattutto un anno fa, molto si temeva sulla possibilità poi di trovare finanziatori per il nostro debito. Ebbene, sembra per ora, per fortuna, un pericolo scongiurato. 349-238-6666 per gli sms. Nella seconda parte del programma ci occuperemo anche di Unicredito, di Banca Intesa, perché i due principali istituti bancari italiani oggi dovrebbero far sapere, vediamo se sarà già arrivata la notizia oppure no, se utilizzeranno i cosiddetti Tremonti Bond, ossia quelle obbligazioni emesse dallo Stato che le banche potevano sottoscrivere pagando un interesse dell'8%, che dovevano servire a aumentare il loro tier, ossia il coefficiente di patrimonializzazione, e quindi permettere alle banche stesse di erogare prestiti alle imprese, ma non solo, senza, diciamo, scendere sotto un certo livello di patrimonializzazione, perché altrimenti lì vi sarebbero stati altri problemi. Da quello che si è capito, l'orientamento invece di queste due banche, ma non sono le sole, è di non utilizzarli, vedremo però, e di ricorrere piuttosto alla liquidità attraverso il mercato, quindi con l'emissione o di un aumento di capitale o di obbligazioni. Sono due cose molto diverse, perché l'aumento di capitale entra nella patrimonializzazione di una banca, l'obbligazione no, nel senso che è un prestito. Comunque ne parliamo nella seconda ora del programma. Rapidamente le altre notizie in breve. Torna a salire leggermente il petrolio, sale a 67 dollari al barile. L'economia internazionale vede a sorpresa una fiducia dei consumatori americani scendere a 53 punti. Per carità, inutile fasciarsi la testa, però sarebbe meglio che fosse salita, visto che tutte le previsioni erano di una fiducia dei consumatori americani in crescita, almeno a 57 punti. Rallenta invece la discesa dei prezzi delle case negli Stati Uniti, un dato migliore delle attese, però insomma meno 13% il prezzo delle case americane nel mese di luglio rispetto al luglio del 2008. BNP Paribas ha annunciato oggi un aumento di capitale da 4 miliardi e 300 milioni di euro e quindi ha chiesto soldi agli azionisti per aumentare il capitale in modo anche da rimborsare i 5 miliardi di euro in azioni privilegiate che erano stati sottoscritti dalla Repubblica Francese durante la crisi finanziaria. Cioè il governo di Parigi aveva dato di fatto 4 miliardi di euro, 5 miliardi di euro in azioni privilegiate, è una tecnica usata da molti governi nella parte peggiore della crisi, quindi settembre, ottobre, novembre dell'anno scorso, per dare solidità e garanzie alle banche. Ebbene, BNP Paribas con questo aumento di capitale dovrebbe restituire tutta il prestito ottenuto di fatto dal governo francese, pagando anche 226 milioni di euro come interesse, come remunerazione per l'investimento, li pagherà lo Stato francese. Vediamo l'Italia. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che il nostro Paese ha saputo reagire meglio degli altri alla crisi e ora ci sono le condizioni per riprendere il cammino verso lo sviluppo. Nel frattempo l'Istat diffonde il dato sulle retribuzioni, più 0,3% mese su mese ad agosto, più 2,4% anno su anno, quindi meglio dell'inflazione, le retribuzioni orarie. L'occupazione delle grandi imprese invece fa un meno 1,8% a luglio rispetto a luglio del 2008, il dato è il peggiore dal 2004. E il centro studi di Confindustria segnala forti oscillazioni nella produzione industriale estiva italiana. Perché? Perché nel terzo trimestre la produzione è aumentata del 3,9% rispetto al secondo trimestre dell'anno, ma con forti oscillazioni, appunto. Ad agosto ha fatto un più 6,7 rispetto a luglio, a settembre ha fatto un meno 3,3 rispetto ad agosto. Comunque rispetto a un anno prima il calo resta pesante, meno 17,7%, e commenta il centro studi Confindustria: l'industria italiana sta uscendo dalla recessione, ma i livelli di attività sono ancora molto depressi. E come dire, si sta uscendo dal calo continuo, ma si riparte da un livello molto molto basso. E scende anche in Italia la fiducia, questa volta delle imprese manifatturiere, a settembre. Strano anche questo dato. Un insieme di comparti analizzati dall'ISAE infatti ha segnalato un calo dell'indice di fiducia. Ultima notizia, un commento del vice ministro dello sviluppo economico Paolo Romani in un'audizione alla Camera. Ha detto, riguardo alla vicina Telecom Italia, che il fatto che Telefonica, cioè la compagnia telefonica spagnola, abbia una quota del 40% in Telco, che è la scatola, la società che controlla Telecom Italia, è un problema rilevante che si deve risolvere, ci penserà l'azienda, ma il governo è molto attento. Io ricordo che appunto Telco è la società che controlla il gruppo Telecom, avendo il 24,5% di Telecom Italia. Di Telco fanno parte Telefonica appunto con il 42%, le Generali con il 28%, Intesa San Paolo con il 10%, Mediobanca con un altro 10,5% e Sintonia, ossia la famiglia Benetton, con l'8,5%. Queste le altre notizie in breve. 349-238-6666. Vedo già molte domande sullo scudo fiscale e allora parliamo di scudo fiscale. Posta infatti nel pomeriggio la fiducia sul decreto legge correttivo al pacchetto anticrisi, quello che contiene tra l'altro le misure sullo scudo fiscale così come emendate, cioè modificate da un emendamento ormai celebre del senatore Fleres, quello che ha allargato le protezioni verso altri reati legati al riciclaggio di denaro. Ancora, per quello che riguarda il tema politico, resta sempre lo scontro tra maggioranza e opposizione. Secondo i dati, secondo la Guardia di Finanza, che cita dati OCSE, se ne è parlato oggi in un convegno proprio sui paradisi fiscali, vi sarebbero all'estero circa 300 miliardi di euro portati illegalmente dagli italiani e immaginiamo non solo dai singoli cittadini, forse anche da organizzazioni criminali, per essere buoni. Ebbene, di questi 300 miliardi, insomma, la stima è che insomma, 125 si troverebbero in Svizzera e 86 in Lussemburgo, quindi la maggior parte di questi miliardi sarebbero in Europa e anche in un'Europa molto vicina. Secondo il direttore generale delle entrate, dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, questa dello scudo fiscale è l'ultima occasione per chi ha portato illecitamente e illegalmente i capitali all'estero, perché il destino dei paradisi fiscali è ormai segnato. Il destino dei paradisi fiscali è, a mio avviso, ormai segnato. Dai leader del G20, riunitisi a Londra lo scorso aprile, dal recente incontro dell'OCSE a Città del Messico, il segreto bancario ai fini fiscali è finito. Ed una maggiore cooperazione internazionale in tema di trasparenza e scambio di informazioni è testimoniata sia dal fatto che sono sempre più i paesi che si allineano agli standard dell'OCSE, sia che sono in crescita gli stati che firmano accordi e convenzioni. Inoltre, le legislazioni nazionali, con l'Italia in prima fila, sono state modificate per contrastare con più forza l'esportazione clandestina di capitali. In particolare è stata introdotta una presunzione relativa per la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale in paesi a fiscalità privilegiata o che comunque non attuano lo scambio di informazioni sono considerate costituite mediante redditi sottratti a tassazione. E poi sullo scudo fiscale è intervenuto anche il ministro Tremonti. Allora, Tremonti ha chiarito che senza le modifiche apportate, quelle dell'emendamento Befera, Fleres, lo scudo fiscale sarebbe stata un'ipotesi di suicidio per tutti coloro che erano potenzialmente interessati allo strumento. Ha detto infatti Tremonti: per noi il test era chiaro, se porti capitale in Italia e paghi appunto il 5%, non posso utilizzare il fatto come prova contro di te. Ma nel corso dell'estate sono arrivati segnali di disapplicazione di questa norma, per cui ha aggiunto il ministro: di fatto lo scudo fiscale senza le modifiche sarebbe stato un'autodenuncia penale, un suicidio, perché a causa dell'interpretazione del vecchio testo l'Italia sarebbe stato l'unico paese che tendeva una trappola, cioè tu rimpatriavi i capitali e di fatto ti autodenunciavi penalmente. Ricordo infatti che prima delle modifiche introdotte dall'emendamento Fleres la copertura giudiziaria, cioè lo scudo, il condono, valeva solo per il reato di omessa o falsa dichiarazione, mentre gli altri reati tributari penali, falso in bilancio, distruzione di scritture contabili, rilascio di fatture false, restavano. E questo ha voluto dire Tremonti: con gli altri reati che restavano tu praticamente venivi coperto da un reato, ma poi venivi perseguito per gli altri. Ecco perché sarebbe stato un suicidio, un'autodenuncia penale. E poi ha aggiunto Tremonti: i capitali criminali non saranno rimpatriati, non credo che la criminalità si servirà di questo strumento. I capitali criminali o sono in Italia perfettamente sbiancati o continueranno la loro attività all'estero, e grazie allo scudo fiscale ci saranno meno capitali disonesti fuori dall'Italia e un uso più onesto di quei capitali per l'università. Noi siamo davvero convinti del fatto che ci saranno, a seguito di questi provvedimenti e delle sanzioni, ci saranno meno capitali di disonesti fuori dall'Italia e un uso più onesto per l'università, la ricerca, il 5 per 1000, la scuola, il sociale. Queste sono le destinazioni etiche che noi abbiamo organizzato nella struttura del bilancio dello Stato. Bene, io credo che ci saranno, ripeto, meno capitali disonesti fuori e un uso più onesto di quei capitali in Italia. E dicevamo, continua invece il botta e risposta politico, perché secondo Franceschini, oggi il segretario del PD Dario Franceschini oggi ha dichiarato di nuovo: lo scudo fiscale è uno schiaffo in faccia, è un condono, è uno schiaffo in faccia a tutti gli italiani che rispettano la legge, che pagano onestamente le tasse, che vedono chi ha truffato la legge e che chi ha esportato capitali venire premiato facendo rientrare quelle risorse senza conseguenze penali e per di più pagando 10-15 volte di tasse in meno. È una vergogna, ha detto Franceschini. Questo rientra nella, diciamo, anche nella valutazione politica, nello scontro maggioranza-opposizione. Io vorrei restare sui temi tra virgolette tecnici, cioè di carattere fiscale, su questo scudo, però rispondendo anche a alcune domande e obiezioni che arrivano dagli ascoltatori. Ecco perché ringrazio per essere in collegamento con noi il professor Guglielmo Maisto, che è docente di diritto tributario internazionale all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera, professore. Buonasera. Uno, lo dicono i suoi colleghi, dei massimi esperti in diritto appunto tributario. Lei in un'intervista Sole 24 Ore dello scorso 24 settembre ha dichiarato, ma insomma è un buon segnale nella lotta ai paradisi fiscali. Prima di tutto le giro una domanda che sta già arrivando. Se, come ha sentito lo stesso direttore generale Attilio Beffera dell'Agenzia delle Entrate, dice attenzione, è l'ultima possibilità perché la lotta ai paradisi fiscali sarà dura, i paradisi fiscali sostanzialmente stanno scomparendo per come li abbiamo conosciuti fino adesso, il loro destino è ormai segnato, molti ascoltatori chiedono, beh, ma se è così, perché tassare solo al 5%? Se veramente è l'ultima possibilità, si poteva tassare anche al 10% o al 15%? Beh, l'ultima possibilità, in quanto non sarà più facile riportare in Italia questi capitali con i controlli che ci saranno in futuro. D'altro canto, realisticamente, le liquidità che già si trovano all'estero difficilmente possono essere, diciamo, rimpatriate se non attraverso questo provvedimento. È anche una modalità di depotenziamento dei paradisi fiscali. Le statistiche che ha reso note la Guardia di Finanza parlano di 300 miliardi attualmente nei paradisi fiscali. Ricordiamoci che lo scudo fiscale del 2001 portò in Italia tra rimpatri e regolarizzazioni 80 miliardi di euro con un gettito pari a 2 miliardi di euro, perché in allora le aliquote per il rimpatrio erano addirittura più basse, ricorderete, sì, 2,5% e poi il 4%, ma solamente nella fase finale del provvedimento. Quindi ipotizzando, diciamo, facendo delle stime, se si riuscisse a riportare in Italia, quindi con un buon successo del provvedimento, che è quello che io mi attendo, un importo sostanzialmente identico, significa portare quei 300 miliardi, portarne 80 in Italia, e 80 miliardi che quindi vengono acquisiti all'economia nazionale in termini di gestione di questo patrimonio o di afflusso ad attività imprenditoriali, diciamo, in Italia. E quindi evidentemente questo, diciamo, è un provvedimento favorevole, perché altrimenti queste somme rischiano di rimanere all'estero e la lotta ai paradisi fiscali in futuro difficilmente, diciamo, potrebbe consentire il rimpatrio legittimo di queste somme. Per cui chi oggi ha queste disponibilità è l'ultima chance per poterle, diciamo, far rientrare in Italia e poter utilizzare legittimamente, altrimenti si è condannati a rimanere sempre, diciamo, diciamo, nascosti, e quindi l'utilizzo di queste somme ha un valore poi molto limitato. Allora, quindi, se ho ben capito, lei dice attenzione perché il vantaggio per l'economia italiana di un rientro di questi, poniamo, 80 miliardi come la volta scorsa, è dovuto da un lato, vabbè, alla tassazione, per cui tendenzialmente 80 miliardi porteranno 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di capitali freschi, ma anche c'è un vantaggio, diciamo, quasi indiretto, cioè ci sono 80 miliardi, poniamo, di euro che rientrano in circolo in Italia, ma secondo me alcuni resteranno all'estero, verranno solo regolarizzati, ma comunque che rientrano in Italia e formano una base di liquidità che dovrebbe permettere poi investimenti, perché questi soldi difficilmente staranno solo in banca. Quelli rimpatriati consentiranno, diciamo, di avviare nuove iniziative. Quelli regolarizzati comunque produrranno redditi che, essendo ormai i patrimoni dichiarati, genereranno un reddito tassabile in Italia. Quindi ho riportato in un certo senso in Italia anche quelli, perlomeno sotto il profilo della tassazione dei redditi che andranno a produrre. Allora, chiarisco una cosa agli ascoltatori, perché lo facciamo da giorni. Qui non stiamo discutendo se sia giusto o no fare lo scudo fiscale, perché questa è un'idea che uno ha a priori, ognuno si tiene la sua, è un'idea che poi divide anche il mondo della politica, ognuno faccia la sua valutazione. Se uno è contrario allo scudo a priori, è ovvio che qualunque ragionamento sul tipo di scudo è un ragionamento che non va bene, così come se uno è a favore dello scudo si può ragionare su che tipo di scudo fare. Qui prendiamo atto del fatto che il governo ha messo la fiducia sullo scudo fiscale, e allora, visto che lo scudo esiste, si ragiona sul come è stato fatto. No, è inutile, diciamo, porre il tema, lo dico, è inutile per la discussione, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, porre il tema, lo scudo è sbagliato, perfetto. Se è sbagliato non ne parliamo più, invece siccome c'è noi parliamo dei fatti. E allora le chiedo, professor Maisto, il 5% non è un po' poco? Perché non è solo il caso della Gran Bretagna che ha il 44%, l'America anche più alto, la Francia il 28%. È che se veramente questi capitali hanno l'ultima possibilità di rientrare, mi scusi se insisto con la domanda, se veramente poi i paradisi fiscali saranno combattuti in maniera più stringente, beh, anche tassarli al 10 a uno conveniva entrare comunque. È sempre meno della tassazione che si ha sui bot ed è sempre molto meno della tassazione che si ha sul lavoro, no? Che è intorno al 43 a seconda del come aliquota massima. È un punto di equilibrio che si tratta di individuare a priori. Evidentemente, diciamo, il governo ha dovuto individuare un'aliquota senza rischiare troppo il rischio di un insuccesso totale di questo provvedimento. E la comparazione con quello che succede in altri paesi, a mio parere, non ha molto senso, perché bisogna vedere qual è il punto di partenza. In altri paesi ci sono sanzioni diverse, sanzioni magari anche più pesanti, e anni aperti, cioè anni che possono essere accertati, il periodo di prescrizione delle regolarità fiscali più ampio, quindi anche a seconda del regime di tassazione e di sanzioni esistenti in un paese si va a valutare e a misurare, diciamo, qual è il costo fiscale per poter rimpatriare queste somme. Quindi se in un altro paese le sanzioni sono molto più forti, quelle di partenza, evidentemente il costo può essere anche più elevato e ci può essere ancora una convenienza. Mentre in Italia, sulla base del nostro sistema normativo, il 5% a mio parere è un'aliquota ragionevole, perché al di sopra avrebbe rischiato di rendere questo provvedimento un insuccesso. Del resto, quando andiamo a comparare il nostro scudo fiscale con provvedimenti analoghi di altri paesi, dobbiamo poi andare a vedere anche se in questi altri paesi ha avuto successo. Cito il caso della Germania, che qualche anno fa avviò un programma di rimpatrio prevedendo un'aliquota del 25%. Non ha avuto un gran successo. Non ha avuto successo, quindi nel momento in cui accetto che il provvedimento deve essere fatto, e come diceva lei, non scendo nel dettaglio del se è giusto o sbagliato, ma andiamo se, oltre voglio, se voglio che sia un successo il provvedimento, evidentemente devo centrare quell'aliquota e quel carico fiscale che mi consente effettivamente di invogliare diciamo gli interessati al rimpatrio. Quindi secondo lei il 5% alla fine di questo ragionamento, per cui 23, 24, 28 non avrebbe portato grandi risultati sulla scia dell'esempio del tedesco, il 5% è un livello adeguato? Il 5% è un livello adeguato, perché dobbiamo tenere conto anche della storia, perché i contribuenti italiani hanno anche ben presente lo scudo del 2001, 2,5%, quindi parliamo già di un'aliquota sostanzialmente raddoppiata. Dobbiamo anche ricordare che nel 2001, dopo aver rimpatriato, io avevo la tranquillità di poter donare il mio patrimonio rimpatriato senza pagare imposta sulle donazioni, di una successione che si sarebbe potuta aprire e i miei eredi non avrebbero pagato imposta sulle successioni. Oggi, per chi fa bene i conti, deve considerare che dopo quel 5% pagato sul rimpatrio, in caso ad esempio di un'apertura di una successione, ci sarà poi un'imposta sulle successioni, che per quanto modesta, perché nel confronto dei discendenti del 4%, però è pur sempre un costo aggiuntivo. Quindi, visto anche questa storia, cioè il nostro punto di partenza, andare oltre a un raddoppio dell'aliquota, diciamo, diventa effettivamente un azzardo per avere una certezza ragionevole del successo del provvedimento. Quindi, a mio parere, è un'aliquota abbastanza ben adeguata. Sì, sul fatto che poi eventualmente se questi soldi dovessero essere donati ai figli, ai nipoti, ai fratelli, ci sia una tassa da pagare, beh, ci mancherebbe altro, cioè, non solo li porti fuori legalmente, te li facciamo anche rientrare con uno sconto, almeno, diciamo, a un certo momento paga quello che paghiamo tutti noi, no? Professore, certo, su questo, ecco, no. Sicuramente, ecco. Però io mi metto nella condizione psicologica di chi a suo tempo, diciamo, aveva magari già fatto qualche rimpatrio. No, certo, diciamo che la condizione psicologica di chi li rimpatria mi sembra già ben presa in considerazione dai vantaggi che ha. Se devo mettermi anche a pensare ai vantaggi sulla linea di successione, allora veramente si rischia di creare contribuenti diversi. Comunque restiamo sullo scudo, perché dopo il metodo pubblicità vorrei chiedere un'ultima cosa, professor Maisto, e cioè alcune obiezioni sono nate non tanto sul 5%, perché insomma da più parti si è detto vabbè, se li volevi far rientrare devi anche dargli dei vantaggi, non sul nemmeno sull'estensione della copertura ai reati. Già noi facciamo notare con il presidente dei commercialisti italiani Siciliotti che o tu tutelavi oggettivamente, cioè realisticamente, o tutelavi anche da altri reati, o se no nessuno faceva, e lo ha spiegato oggi bene Tremonti, avrebbe mai fatto ritornare i capitali per avere, certo, non essere perseguibile sulle omesse e false dichiarazioni, ma essere perseguibile su altri reati tipo falso in bilancio o rilascio fatture false, cioè dovevi dargli il condono, l'ombrello, lo scudo su tutto. Molti scrivono in merito a una norma che nemmeno io ho capito: perché esentare gli intermediari, cioè le banche, le SIM e i professionisti, i commercialisti, i consulenti, dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio? Perché, voglio dire, tanto sappiamo che in molti casi non siamo verginelle, non l'avrebbero fatto comunque. Voglio dire, spesso le banche si offrono loro di pagare il 5% al posto di chi li fa rientrare. Però levarla è sembrato come, diciamo, dare anche così l'imprimato, l'aura di legge a questa cosa. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso parleremo di borsa. Vorrei concludere sullo scudo fiscale. Ripeto, se uno è, lo dico a chi sta scrivendo, contrario allo scudo perché ritiene che sia un premio per gli evasori, è un'idea legittima. Però allora di scudo non parliamo più. Stiamo ragionando su un provvedimento preso dal governo e per capire se una volta che si decide di fare uno scudo, perché c'è motivo di cassa, perché si ritiene che sia meglio avere qualcosa che non avere niente, perché si ritiene che in questo modo poi questi capitali circoleranno, per tutto un insieme di valutazioni altrettanto legittime, ragioniamo su come è stato fatto. È inutile continuare a dire lo scudo è sbagliato di principio, ho capito, allora basta, non se ne parla più. Professor Maisto, la norma, che probabilmente era più forma che sostanza, ma almeno la forma ogni tanto serve, che obbligava i professionisti e gli intermediari a segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, è stato giusto levarla, cioè esentarli anche da questo obbligo che, ripeto, secondo me, non essendo una verginella, sarebbe stato già poco seguito? Ma io condivido queste critiche all'emendamento che è stato apportato, nel senso che effettivamente non è solo una questione di forma ma anche di sostanza. Si poteva lasciare l'obbligo tenendo presente che chi rimpatria ragionevolmente deve tenere conto che prima o poi potrebbe essere chiamato a dimostrare del diritto di poter rimpatriare, cioè che le somme rimpatriate non derivavano da reati per i quali era precluso il rimpatrio, perché come sappiamo questa preclusione ancora esiste per reati come possono essere estorsione, riciclaggio e quant'altro. Quindi esonerare addirittura l'intermediario tutto campo da questo obbligo mi è sembrato effettivamente, diciamo, non ragionevole come misura. Si poteva lasciare questo obbligo, teniamo presente che questa misura che è stata adottata adesso dal governo ci espone anche delle censure in sede comunitaria, perché le norme per le quali noi oggi prevediamo un esonero sono norme comunitarie, esistono delle direttive in materia di antiriciclaggio, e ci espone anche ad una censura più generale, morale, da parte degli altri paesi dell'Unione Europea, perché questo sia un vero unicum nel contesto europeo. Anche altri hanno adottato misure di scudo, ma nessuno ha esonerato gli intermediari dall'obbligo di segnalare operazioni sospette. Quindi, per riassumere, visto che io ricordavo all'inizio, il professor Maisto è uno dei massimi tributaristi italiani, lei dice la soglia del 5%, una volta che si decide di fare lo scudo, la soglia del 5% è più o meno corretta, perché bisogna anche trovare un punto di equilibrio tra il vantaggio di entrare e la tassazione da porre a questo ente dei capitali, che se si vuole che lo scudo abbia successo e non come in altri paesi è difficile porre soglie più alte. Questi soldi torneranno e saranno, diciamo, utilizzati in maniera diretta, quelli tassati, ma anche in maniera indiretta, perché torneranno in circolo. Mi sembra anche lei invece scettico, meglio contrario, a uno dei provvedimenti presi dall'emendamento Fleres, che oltre ad allargare la copertura giudiziaria anche ai reati tributari penali come falso in bilancio, distruzione di scritture contabili, rilascio di fatture false, ha esentato intermediari e professionisti dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, quella cosa lì si poteva anche tenere, anzi forse si sarebbe dovuta tenere per evitare poi controversie con Bruxelles, con la normativa comunitaria e forse anche, diciamo, dare l'impressione di un paese eccessivamente così tollerante con certi reati. Grazie, come vedete si può ragionare anche di queste cose e non esistono solo, diciamo, i bianchi e i neri. Grazie a Guglielmo Maestro, docente di diritto tributario internazionale. Adesso la borsa. Borsa positiva a Milano ed è un'eccezione perché Parigi ha perso lo 0,3, Francoforte lo 0,4, l'America sta perdendo uno 0,3%, Londra ha perso lo 0,1, Milano ha guadagnato lo 0,4% sul FTSE MIB, soprattutto grazie ad Alleanza Assicurazioni più 3,6, Generali Assicurazioni anch'essa chiaramente più 3,6, CIR più 2,90, Unicredit più 2%, Mondadori più 1,20, Mediolanum e Finmeccanica più 1,1 come Saipem. Euro a quota 1,45, come sempre il collegamento con Radio Corri sulle 24 ore. Leonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Generali e Alleanza. C'è un'intervista tra l'altro su Sole 24 ore di oggi proprio sulle Generali. Prego. Esatto, è proprio questo il motivo per cui i titoli sia di Generali che della controllata Alleanza si sono risvegliati. In particolare ieri la società assicurativa ha varato un riassetto delle attività in Spagna, ha varato la fusione delle due controllate sotto un'unica società che si chiamerà Generali Espana, ma soprattutto diciamo che l'operazione, che è stata salutata appunto positivamente anche dagli esperti finanziari, porterà al almeno a detta dell'amministratore delegato Sergio Balbinù, porterà appunto a un risparmio dei costi intorno al 10%. Quindi su queste basi, e poi diciamo nei giorni scorsi i titoli erano rimasti un po' in ombra, Piazza Affari ha riscoperto appunto sia Generali che anche la controllata Alleanza. È chiaro che insomma i titoli si sono mossi in parallelo, le CIR, ma soprattutto anche di nuovo Unicredito. Sì, le CIR ultimamente si muovono spesso un po' in controtendenza, c'è sicuramente un grande interesse nei confronti della società, senza però che siano emerse o siano uscite notizie particolari sul gruppo. Per quanto riguarda invece Unicredit, più 2%, c'era molta attenzione ovviamente nei confronti dell'istituto e nei confronti anche di Intesa San Paolo, che però ha chiuso invariata. Questo perché si riuniscono, sono tuttora in corso oggi i consigli di amministrazione sia di Unicredit che di Intesa per decidere se le due banche lanceranno i Tremonti Bond o piuttosto effettueranno operazioni come ad esempio un aumento di capitale o l'emissione di strumenti ibridi per migliorare la propria condizione patrimoniale. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, soprattutto per Unicredit, pare quasi certo che il Consiglio opti per il lancio di un aumento di capitale. D'altra parte, fino a che non è finito appunto il consiglio ancora in corso, è presto per dire qualsiasi cosa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'appuntamento e l'approfondimento sulla giornata di borsa, poi do di nuovo qualche risposta sullo scudo fiscale, perché ogni tanto, per carità, colpa mia, è difficile anche così far passare alcuni concetti. Comunque, con ordine, Eleonora Micheli, dicevamo al di là delle banche, io sarei quasi per fare una moratoria sui report, però non so se si riuscirà mai, cioè non ne voglio più parlare di delle indicazioni che arrivano da banche che hanno perso così tanto in questi anni, in questi mesi. UBS ha rivisto al rialzo il target price di Mondadori del gruppo Espresso e anche su RCS, va bene dai. Finmeccanica pure qui, report positivo di Nomura più 1,1% a 12 euro per azione, ritiene i titoli sottovalutati, chissà a quanto li ha lei in portafoglio. Telecom Italia. Sì, Telecom Italia meno 1,6%, è scivolata soprattutto sul finale, non è mai stata particolarmente brillante, però appunto ha approfondito le perdite soprattutto sul finale. E ovviamente c'è molto interesse su Telecom Italia, in quanto articoli di stampa oggi hanno diffuso più tipi di ipotesi che stanno circolando, in particolare ha creato un certo, diciamo, ha creato punti interrogativi l'articolo di Repubblica nel quale si sostiene che Romani a inizio settembre si sarebbe recato in Cina anche per sondare l'eventualità di avere finanziamenti da parte delle banche cinesi per investire nella rete di Telecom e comunque per risolvere il debito di Telecom. E sempre Repubblica sostiene inoltre che la posizione del premier Silvio Berlusconi sarebbe quella di comunque promuovere un'uscita di Telefonica dall'azionariato. Ricordiamo che Telefonica è presente in Telco, la scatola che controlla il 24,5% di Telecom Italia. Appunto, ci sarebbe questa sollecitazione a far uscire l'azienda spagnola e favorire invece un azionariato italiano. Quello che c'è di certo è che oggi Romani in un'audizione alla Camera effettivamente ha espresso, diciamo, criticità nei confronti della posizione. Ah beh sì, ha detto che il fatto che gli spagnoli Telefonica controllino, siano socio di maggioranza della società che a sua volta controlla Telecom Italia, è un problema rilevante che si deve risolvere. Ci penserà l'azienda, ma il governo è molto attento. Comunque, più chiaro di così. Esatto, ha detto il governo non può parlare, ma pensiamo che le infrastrutture strategiche debbano restare italiane. Sempre Romani invece ha smentito di essersi recato in Cina per Telecom, ma ha detto piuttosto che si è recato in Cina ma per interesse politico. È da vedere, va ricordato che a fine ottobre scade il patto che lega i soci di Telco, che ricordiamo è la scatola che controlla Telecom Italia, e quindi potrebbero aprirsi una serie di partite. Sì, interesse politico non lo so, però insomma è chiaro che le ipotesi sono queste. Romani oggi ha confermato che è un problema la partecipazione spagnola in Telecom Italia, questo l'ho detto chiaramente. Allora, i migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda Milano, sia il miglior titolo è Icon più 28,7%, Safilo più 8,4%, Elica di nuovo forte più 5,3%. Fronte opposto, poca roba, Meridie meno 5,88, Aeroporto Toscano meno 3,6, Aeroporto di Firenze meno 2,7, Aeroporto di Venezia meno 2,8 dopo la crescita di ieri. Icon. È stata premiata perché proprio oggi ha ricevuto l'ok al piano di risanamento da parte delle banche. Era una società che era in grave difficoltà finanziaria, oggi appunto il disco verde da parte degli istituti di credito finanziatori per questo piano di rilancio 2009-2012. Grazie Donna Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, oggi veramente c'è qualche ascoltatore che si lamenta anche perché ho criticato i report delle banche, dateli, se no non sappiamo come investire. Vabbè, li leggeremo. Io metto solo in guardia, ma non perché non li ritenga seri, ritengo che sono informazioni che devono girare tra gli investitori professionisti, così tra di loro si conoscono e sanno anche magari quanto autonomo può essere il giudizio di una banca che consiglia di comprare o di vendere un titolo. Secondo me, quando vanno in mano poi a investitori non professionisti, a chi lo fa perché mette proprio risparmi, rischiano di così creare informazioni in qualche modo lette male, distorte, chiamatele come volete. Insomma, abbiamo fatto intere puntate, la dico tutta, negli anni passati anche a Salvadanaio, guardando quali erano i rapporti tra le banche d'affari che suggerivano certi titoli e allo stesso tempo il possesso di questi titoli da parte delle banche stesse. Se non è conflitto di interesse questo, non so cosa lo sia, perché e venne fuori che in moltissimi casi la raccomandazione, ci furono anche indagini della stessa Mediobanca, che la raccomandazione nell'80% dei casi era sempre comprare, quasi mai vendere. Le ricordo ancora nel 2003, nel 2002, quindi non stiamo parlando di cose nuove. Ultima risposta invece sullo scudo fiscale. Allora, adesso sentiamo anche cosa ne pensano le banche, perché su questo è intervenuto anche Corrado Faisola, presidente dell'ABI. Ripeto il concetto: uno può essere contrario per principio allo scudo, come poniamo una guerra, uno può essere contrario alla guerra per principio, quindi qualunque guerra è sbagliata, perfetto. Se non è contrario per principio e se un governo decide di andare in guerra o di avanzare un'azione militare, si può ragionare su come farla, su come sarebbe meglio farla, sul perché sono state fatte alcune cose. Secondo me sì, una volta che il fatto c'è. Sentiamo comunque sullo scudo l'ABI, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, che ha detto, darà la massima collaborazione. Una misura positiva, ecco, e di quanto la finalità sono quelle di dare un contributo determinante al venir meno anche di situazioni che nascono da una legislazione internazionale che finora è stata carente e che attraverso questo meccanismo, ecco, dovrebbe garantire soprattutto per il futuro il non ripetersi di situazioni quali quelle che oggi è possibile sanare. E un'ultima nota, mentre non vedo ancora agenzie sulla fiducia posta, ma adesso vedremo anche aggiornamenti. Un'ultima nota sullo scudo fiscale: il termine ultimo per aderire allo scudo è fissato al 15 dicembre, non ci saranno proroghe. Lo ha ribadito il sottosegretario dell'economia Luigi Casero a margine di un convegno. Invece, secondo il presidente dei commercialisti italiani, il nostro ospite della settimana scorsa, Claudio Ceciliotti, le proroghe dovranno esserci, anzi saranno inevitabili. Lo scudo riaprirà le porte, perché non prevedere fin da subito in tutta trasparenza un diverso termine, sarà inevitabile la riapertura dei termini, così sostengono i commercialisti. Chi vivrà vedrà. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di un global bond, ossia di un'obbligazione globale emessa dallo Stato italiano. Una precisazione sulla borsa: alcuni di voi hanno chiesto di Safilo, avete ragione, più 8,4% oggi, soprattutto sulla notizia o sulla voce di un interesse da parte del fondo HAL, HAL. Chiusa la precisazione sulla borsa, saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento la dottoressa Maria Cannata, che è direttore generale del debito pubblico al Dipartimento del Tesoro, quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Allora, oggi lo Stato italiano ha emesso, anzi abbiamo scoperto che... Ieri l'ha emesso, oggi abbiamo scoperto che i 2 miliardi e mezzo di dollari di prestito che abbiamo chiesto a livello mondiale sono stati tutti collocati. Avevate dubbi? No, non avevamo dubbi, perché in genere, insomma, siamo abbastanza prudenti quando andiamo sul mercato. In realtà la nostra intenzione era di collocare 2 miliardi, poi abbiamo ricevuto una domanda non solo quantitativamente ma anche qualitativamente così buona che abbiamo deciso di innalzare la dimensione di questa emissione a 2 miliardi e mezzo. No, lo chiedo perché ricordo che giustamente le preoccupazioni di tutti i ministri dell'economia europei e in particolar modo di quello italiano a settembre-ottobre, nel periodo più brutto della crisi finanziaria, erano di attenzione, bisognerà poi il debito italiano, lo spiego e lo chiarisco a chi scrive, va come tutti i debiti rifinanziato, un po' come un debito, diciamo, di una famiglia o di un'impresa, e per rifinanziarlo, quando vanno in scadenza alcune obbligazioni, alcuni bot, BTP, devi rimettere degli altri. La preoccupazione nel momento peggiore era che il mercato si bloccasse. In realtà, anche da questo collocamento, dottoressa, possiamo dire che per ora la situazione è di non solo richiesta, ma anche richiesta più forte di quanto voi non immaginaste? Sì, questo sì, devo dire che poi, insomma, ultimamente la situazione è notevolmente migliorata, sì, quantomeno sui mercati finanziari, ma è anche vero che, insomma, l'Italia si è difesa molto bene in questa situazione difficile, in quanto non ci sono mai stati problemi di collocamento di titoli, che presuppone che ci sia un po' di lavoro dietro, però, insomma, c'è molta soddisfazione in questo. Ecco, la cedola pagata del 2,12, in realtà del 2,125%, sì, con scadenza 5 ottobre 2012. Sì. Chi ha sottoscritto questo prestito italiano? Dunque, la distribuzione è stata molto buona e molto diversificata, perché ci sono stati messi ordini da 105 conti, e, diciamo, per tipologia di investitori è molto positivo il fatto che banche centrali ed altre istituzioni governative abbiano coperto il 43%. Cioè il 43% di questo prestito che noi abbiamo chiesto a livello mondiale da 2 miliardi e mezzo di dollari è stato coperto da altre banche centrali e da altri governi? Sì, istituzioni soluzioni governative, sì, che ne so, tipo fondi pensioni pubblici, certo, e cose di questo genere. Poi invece fondi di investimento hanno coperto il 32%, le banche il 20% e poi il residuo 5% altri tipi di investitori. In quali aree hanno comprato più debito italiano? Beh, è stato molto ben distribuito anche questo, perché un 30% è andato in Asia, un 37% in America, però intendendo anche se in maniera prevalente negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti, perché c'è stato anche qualche ordine dall'America Latina e quindi un po' distribuito, e poi il restante 33% Europa, Medio Oriente, Africa, nell'ordine come grandezza, più importante l'Europa, poi un po' Medio Oriente, un pochino Africa, quindi globale, veramente globale, sì. La cedola del 2,125% è quindi quello che pagherà lo Stato italiano, sì, come interessi su questo prestito che gli è stato, sì, concesso, è in linea con quello che si vede sul mercato? Sul mercato, sì, certo, è in linea, è al di sotto di quello, il rendimento poi è leggermente di più perché è stato collocato a 99, insomma un pochino sotto la pari, comunque è un rendimento che è inferiore a quello che si poteva raggiungere sul mercato domestico, perché noi normalmente le emissioni in valuta le facciamo solo se otteniamo anche un beneficio in termini di costo di finanziamento. Quindi è più basso di quello un po' che avresti. Più basso, sì. Per far capire a tutti, devo dire. Cioè per far capire a tutti, il governo in questo modo, lo Stato italiano, poi paga meno di quello che pagherebbe mettendo un BTP, che pure non è che costino tanto. Esatto, però insomma conviene chiedere soldi, lo faccio ancora più brutale, all'estero e sui mercati internazionali, perché si paga un interesse più basso rispetto a che non farsi prestare gli stessi soldi in Italia. È il motivo per cui l'avete messo in dollari, perché alcuni chiedono perché non l'avete messo in euro. Teniamo condizioni migliori di quelle che possiamo ottenere mettendo un titolo domestico. Ultima domanda, ci chiedono alcuni ascoltatori, quant'è il debito che dobbiamo rifinanziare nel 2009? Non vorrei metterla in difficoltà. Parte che abbiamo quasi finito, cioè insomma siamo abbastanza in dirittura d'arrivo, è comunque tanto, se lei dice le scadenze, sì, le scadenze se consideriamo anche i bot, aspetti, non ce l'ho proprio in mente, ma è qualcosa del tipo di... Allora, poco meno di 500 miliardi di euro da rifinanziare. Se consideriamo anche i bot, se invece consideriamo solo i titoli a medio lungo termine, molto meno, ma i bot rollano nel corso dell'anno, perché ci sono anche a 3 mesi e 6 mesi, quindi insomma, esatto, normalmente quando si fa questo tipo di valutazione i bot si tirano fuori, Perfetto. Le scadenze erano intorno del medio lungo intorno ai 170 miliardi di euro, se ricordo bene, non ce li ho proprio sott'occhio, una cosa del genere. Allora, no, ma infatti glielo chiedevo senza volerla mettere in difficoltà, però fa bene ricordare che poi i bot non sono scadenze solo annuali, ma a 3 mesi o a 6 mesi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, mi sembra che alla domanda abbiamo risposto sul perché in dollari le condizioni erano più favorevoli, così come le condizioni, mi riferisco ai 2 miliardi e mezzo di prestito che lo Stato italiano ha visto completamente sottoscritto a livello internazionale. Ripeto, era una scadenza molto importante, proprio perché anche in questo modo si dimostra che per fortuna i timori di un mercato in cui è difficile rifinanziarsi vengono, oserei dire, quasi definitivamente, scompaiono quasi definitivamente, visto che appunto lo Stato voleva emettere 2 miliardi e ha emesso 2 miliardi e mezzo, tale era la richiesta per quello che riguarda il prestito da sottoscrivere. Volete sapere ancora quali paesi li hanno sottoscritti? Ripeto, 30% l'Asia, Europa, Medio Oriente e Africa il 33% e America il 37%. Il rendimento, confermo, è al 2,125%, sulla scadenza è il 5 ottobre 2012. Devo chiarire però a alcuni ascoltatori che questo, oltre che essere già stato sottoscritto, questo global bond, questa obbligazione globale, era riservata, ripetiamolo, solo agli investitori istituzionali, istituzioni governative e banche centrali, che vuol dire anche fondi pensione, al 43%. Dottoressa Cannata, l'ultima domanda che ho per lei riguarda, vabbè, alcuni ascoltatori chiedono del rischio cambio, perché l'avete messo in dollari, ma rischio cambio lo copriamo sempre. Esatto, quindi avete delle ricoperture sul rischio cambio. E l'ultima domanda è se ve ne saranno altre, o a questo punto per il 2009, diciamo, quanto emissioni obbligazionarie per a livello mondiale? A livello in dollari? Sì. Beh, in dollari, a meno che non ci sia qualche opportunità eccezionale, potrebbe essere chiuso. Però se ci fossero veramente un grandissimo interesse a condizioni molto convenienti, potremmo anche considerarlo. Naturalmente quello che emettiamo in dollari poi non lo emettiamo in titoli interni, ovviamente. E questo però le consente, vedo che c'è molto interesse sul tema e mi fa anche piacere, le consente di dire che, insomma, il mercato, anche dal vostro punto di vista, è un mercato assolutamente liquido, come si dice in gergo, cioè avete avuto una richiesta superiore a ogni attesa. Sì, sì, una richiesta superiore alle attese. Beh, ogni attesa, chi lo sa, ci si può attendere chi? No. Sempre molto, ma, no, insomma, ma siccome molto buono. No, siccome vediamo che sia per i soggetti privati, penso alle banche che hanno chiesto, hanno emesso, o banche o società, grossi gruppi che hanno emesso obbligazioni, corporate bond si chiamano in gergo, hanno avuto richieste 10, sì, 5 volte superiori, anche sui bot e BTP mi sembra che l'andamento sia analogo, sì, cioè sì, c'è sì, molta richiesta di sicurezza. Sicuramente, sì, sì, certo. Questa è proprio una caratteristica di questa crisi, che ha portato a privilegiare i titoli più sicuri, e i titoli governativi, specialmente dei paesi dell'area euro, sono tra i preferiti in questo contesto. Ecco. Con un vantaggio, così concludiamo, anche per noi come Stato, perché insomma paghiamo un interesse oggettivamente inferiore, oggettivamente sì, inferiore, ma anche basso rispetto a basso in termini assoluti. In termini siamo assoluti, veramente ai minimi storici, sì. Lei non ricorda nella sua esperienza tassi così bassi, a 2,125%? No, nella parte poi breve medio tassi così bassi mai. Nella parte lunga magari in qualche momento sì, ma nella parte breve media assolutamente bassissimi. Grazie al direttore generale del debito pubblico, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottoressa Maria Cannata. Buonasera. Volete sapere di Unicredit di Banca Intesa? Non ci sono ancora notizie, quindi è uscita una brevissima dichiarazione poco fa di uno dei consiglieri di Unicredit, ossia Piero Gnudi, che ha detto al termine del consiglio di amministrazione, è finito praticamente un quarto d'ora fa, siamo sempre tutti d'accordo, riferito al rispondeva una domanda se vi fossero state posizioni diverse dentro il CDA di Unicredit, siamo sempre tutti d'accordo. Gnudi ha poi aggiunto, leggo testualmente l'agenzia, che nel consiglio di amministrazione c'è stato un clima assolutamente sereno. Un altro consigliere, Theodor Weigel, uscendo sempre dal consiglio di amministrazione di Unicredit, ha detto sarete molto ben informati su tutte le decisioni prese. Ripeto, in questo momento non c'è ancora alcuna agenzia. Volete avere anche l'aggiornamento dai mercati? Va bene, ve lo diamo oggi, di solito l'appuntamento è sempre il solito alle 17.40. Comunque l'America resta negativa di uno 0,3%, il Dow Jones, il Nasdaq meno 0,5%. Ripeto, le borse hanno chiuso tutte deboli tranne Milano, Parigi ha perso lo 0,3%, Francoforte lo 0,4% e Londra ha chiuso con un meno 0,1%, in una giornata in cui, complice diciamo così, anche l'intervista su Sole 24 Ore, Generali e Alleanza hanno segnato i due andamenti migliori tra i titoli di maggiore capitalizzazione, più 3,6% ambedue, poi bene le CIR più 2,90% e Unicredit più 2%, Mediolanum più 1,1% come Mondadori e Finmeccanica. Ancora sullo scudo fiscale, io vorrei, non riusciamo a chiudere questo capitolo, allora riascoltiamo perché ce lo chiedete, il ministro Tremonti che ha spiegato, ripeto, uno se è in disaccordo con lo scudo lo è e basta, se invece è d'accordo si tratta di ragionare su che tipo di scudo uno va a fare, ha detto attenzione,